All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, nati alla cena dei regini. Applausi. Ma cos'è la cena dei regini, ragazzi? Una volta a settimana organizzo questa cena per ritrovarci con le persone che collaborano con me, sciagurati e via dicendo. Grazie. Parlare di notizie, giochi, attualità e quant'altro assieme. Quindi un momento che va anche in radio, grazie a Radio Abba Walla che ci ospita gentilmente per questa seconda stagione del programma. E adesso iniziate a visitare www.ibac.it, cliccate la cena dei regini e contattateci per commentare questa puntata insieme a noi. No, mi serve. Iniziamo con uno spazio di musica, Barry Yoko in TAD. E riecco la cena dei regini, continuate a visitare www.ibac.it, continuate a cliccare la cena dei regini per comunicare, per riascoltare le puntate precedenti, scaricare il podcast e via dicendo. Ragazzi, innanzitutto una piccola comunicazione di servizio: in queste settimane abbiamo stampato la locandina della cena dei regini. Alcuni bar l'avevano chiesta da esporre durante la settimana e andremo anche in giro a chi la vuole esporre a portarla, a fare un po' di macello a casa sua, nel suo bar, e a lasciare questa locandina. Quindi il nostro vessillo in giro per la città, in giro per i bar. Se anche tu che stai ascoltando hai un bar oppure un locale, un luogo di ritrovo, o se hai tanti amici a casa tua, perché no? Alla fine, sai, veramente tanti amici. Comunicate. Poi è bello, un quadretto tipo attaccato fuori. È fantastico. Anche i ragazzi di Radio Abba Walla sono stati entusiasti della realizzazione. Per questo stile un po' old school che però funziona. E quindi saremo in giro ad apporre queste locandine. Adesso passiamo al nostro ospite di questa sera, Ilario Mazzai, rappresentante del gruppo cooperativo Goel, che è qui a parlarci del progetto Aiutamundi, finanziato da Fondazione con il Sud, che propone di creare un vero e proprio circuito commerciale senza uso del denaro. Ciao Ilario, come stai? Ciao a tutti, sto benissimo, mi fa piacere essere qui perché conosco BAC da diversi anni e mi fa piacere essere tornato sia per rivedere lui e gli altri amici, sia proprio per parlare di questo progetto. Eh sì, perché io sono un ragazzo che una volta che lo conosci non lo scordi più. sicuro, confermo. Assolutamente. Grazie ragazzi. Continuiamo adesso in maniera quasi formale con qualche domanda su questo progetto. Volentieri. Iniziamo però da una prospettiva un po' più ampia di quello che tu ci stai parlando. Una breve presentazione di questo gruppo Goel, cioè cos'è e di cosa si occupa esattamente. Allora, il gruppo Goel nasce nel 2003, è un gruppo cooperativo che fa impresa sociale attraverso sia direttamente che attraverso le cooperative che ne fanno parte. Ovviamente io ne farò solo qualche cenno anche perché ci vorrebbe più di un'ora solo per elencare tutte le attività che vengono fatte dal consorzio. Nasce tempo fa, quindi sì, nasce nel 2003 e infatti quest'anno abbiamo proprio festeggiato il decennale. La data reale sarebbe in maggio, ma per esigenze, insomma, per aumentare la partecipazione è stata fatta il primo agosto. Per agevolare. In seno a questo gruppo ci sono attività di vario tipo. Assolutamente, con l'andare del tempo si è dedicato a più attività. Le principali in questo momento, non le uniche, ma le principali in questo momento vanno da... ha creato un marchio di moda etico che si chiama Cangiari. E questo perché? Questo marchio di moda etico da cosa nasce? C'era una piccola realtà di donne che avevano ancora la capacità di tessere al telaio tradizionale, quello proprio a mano. Fantastico. Soltanto che immaginate che per fare un solo metro di tessuto ci vogliono dalle 3 alle 6 ore, quindi tessuti preziosissimi che non trovavano mercato. E quindi questa realtà sarebbe morta. A questo punto il consorzio cosa ha pensato? Se questi tessuti non hanno un mercato qui, creiamolo noi un mercato. E quindi ne ha fatto tessuti per abiti di alta moda. E quindi da qui quindi, è nato questo Parigi, New York, adesso proprio l'altra settimana è tornato il presidente Linarello, è tornato da New York, è stato lì 10 giorni con i buyer internazionali, abbiamo venduto in Cina, la Cina che tanto esporta verso di noi, hanno comprato abiti dei Cangiari, siamo stati in Israele, siamo stati in Francia, insomma. Quindi un gruppo cooperativo molto attivo, sì. molto distribuito sia nella... Quel bio, cioè avete presente le rivolte di Rosarno? La rivolta di Rosarno era nata anche perché lo sfruttamento non era solo dei ragazzi di colore, ma anche dei produttori, perché i produttori le arance vengono pagate a 5 centesimi al chilo, quindi improponibile anche per chi deve viverci con questa cosa qui. Come fai a pagare le persone se già tu non ce la fai? Il consorzio Goel ha creato Goel Bio e attraverso una rete di distribuzione nazionale che è riuscita a crearsi, riesce a spuntare al produttore tra i 40 e i 50 centesimi al chilo, quindi dalle 8 alle 10 volte in più rispetto a quello che sarebbe. Ovviamente i produttori che si associano devono rispondere a dei disciplinari rigidi, ma ben venga anche per loro. Chiaro. Quindi, molte realtà coniugate anche diverse tra loro. L'ultimo tassello, diciamo, in ordine di tempo. Sì, uno degli ultimi tasselli in ordine di tempo è questo progetto Aiutamundi. Nell'accezione latina o dialettale, comunque funziona sempre. Nel senso, Aiutamundi, diamoci una mano. Aiutamundi, diamo una mano a tutti. Cos'è Aiutamundi o Aiutamundi e cosa offre esattamente? Aiutamundi è un vero e proprio circuito economico in cui si può vendere e acquistare beni e servizi, quindi non solo servizi, non solo beni, ma entrambe le cose, senza l'uso del denaro contante. Cioè, altri sistemi hanno cercato di fare cose simili. Non so se avete sentito, come vi dicevo prima, parlare delle banche del tempo. La banca del tempo come funziona? Un'ora del mio tempo contro un'ora del tuo tempo. Se io sono dottore e hai bisogno di me, io presto il mio lavoro a te gratuitamente in cambio del tuo lavoro quando ne avrò bisogno. E questa è una cosa che succede in diverse parti del mondo, ma anche qui in Italia, soprattutto centro-nord Italia, ci sono tante realtà che usano questa banca del tempo. Altri sistemi che sono stati pensati sono le monete alternative, cioè come lo SHEC, come il SIMEC, come insomma ci sono varie monete alternative. Ma entrambi questi sistemi, banca del tempo e monete alternative, hanno dei limiti intrinsechi, cioè già in se stessi hanno dei limiti. La banca del tempo non tiene conto del valore di mercato, cioè a meno che una persona non lo faccia con vero e proprio spirito altruistico, un medico, un'ora di un professionista, di un avvocato, di un medico, di un commercialista, con un'ora dell'imbianchino o della ragazza appena diplomata che fa la babysitter per arrotondare, un'ora contro un'ora non reggerebbe a lungo il sistema, non regge, come infatti si sta dimostrando, non regge a lungo. E questo è uno dei limiti. L'altro limite è che si parla solo di servizi, cioè io non posso con la banca del tempo andare all'alimentari e fare la spesa, posso comprare solo prestazioni, scambiare solo prestazioni. Invece con Aiutamundi, invece cosa succede? Il valore resta quello di mercato, cioè se io il dottore lo pago 50, in Aiutamundi continuo a pagarlo 50, cioè non ha un prezzo fuori dal mercato. Oltretutto non lo devo pagare in euro, in denaro contante. Altra cosa, nella banca del tempo lo scambio è biunivoco, cioè io ho bisogno di te, dopodiché quando tu hai bisogno di me vieni a riscuotere. Iniziamo a dire, a chi si rivolge Aiutamundi? C'è una fascia diciamo mercato, c'è un'utenza particolare, no, chiunque, non c'è nessuna assolutamente limitazione. Dalla casalinga al libero professionista, all'imprenditore, al commerciante, perché dato che, come stavo dicendo, non è soltanto uno scambio di beni, ma anche uno scambio di servizi, quindi chiunque di noi, anche chi materialmente non ha un lavoro, dipendente o autonomo che sia, ha delle competenze. Cioè anche la casalinga sa fare la crostata, o sa fare riparazioni di cucito, o sa fare la babysitter visto che è mamma, chi meglio di lei. Questo vuol dire che può spendere queste sue competenze per guadagnare all'interno e poter acquistare comunque in euro, cioè non le viene riconosciuto valore sia come persona che come potere d'acquisto. Quindi si guadagnano dei, tra virgolette, crediti, sì, si verso possono altre persone. Esatto. Non è una cosa, e non è biunivoco. Non è biunivoco. Esatto. Quindi io posso avere bisogno di te. Se tu non hai bisogno di me, però tu ti sconti quello che hai speso su di me con un altro. Esatto, hai capito, sì, perfettamente. Perché cioè, si come entra, avere soldi in tasca. Si entra in questo circuito all'interno del quale c'è, diciamo, un portafoglio, tra virgolette, di credito che poi si può spendere, sì, e poi si può accumulare. Faccio un esempio. Mm-hmm. Chi si iscrive come libero professionista o commerciante, comunque con una partita IVA, già in partenza sappiamo che ha un potere di spesa già in partenza maggiore rispetto al ragazzo disoccupato, per esempio. E per innescare il sistema abbiamo detto a chi ha partita IVA: guarda che tu già in partenza hai la possibilità di spendere 500 euro perché sappiamo che comunque nell'arco di un anno hai voglia quante volte ci rientri. Viceversa, ci sono persone che nel momento in cui entrano gli viene dato zero. Quello diventa l'offerta, cioè quelle persone che entrano a zero diventano l'offerta, cioè io posso andare a prendere le competenze da tutte queste persone, quindi dargli la possibilità di lavorare e quindi dargli dignità e possibilità di perfetto diventare. Intanto, esatto, spieghiamo adesso da un punto di vista pratico io sono a casa che sto ascoltando la cena dei Reggini, voglio informarmi, entrare a far parte di Aiutamondi, cosa posso fare? Allora, la cosa principale, visto che parliamo di una radio online, c'è il sito che è www.aiutamundi.com. Quindi semplicissimo, è una parola dialettale, quindi se lo sentono in altre parti d'Italia è proprio, va scritto così come si pronuncia. Aiutamundi. Esatto, .com. E già lì basta, è proprio un format da compilare con i vari campi e basta entrare e fare la registrazione. Esatto. E si ha la possibilità già di accumulare, diciamo, credito. Sì, ti rendi subito disponibile la disponibilità la tua competenza, il tuo lavoro, il tuo commercio, perché ci sono anche un libero professionista che esatto, non spende tutto il suo tempo, dice io potrei acquistare più clienti, perché comunque diventa una vetrina non indifferente, un sito internet gratuito, comunque non si paga nulla per aderire e quindi liberamente accedere e usufruirne. Al momento ovviamente il sito è in crescita, ma che genere di servizi offre, cioè a cosa si può accedere tramite Aiutamo? Acquistare di tutto? Allora, guarda, io ho leggere l'intero elenco è impossibile, perché le competenze si trovano sempre elencate sul sito. Assolutamente. Tieni conto, perché poi entrando nel sito funziona come un vero e proprio motore di ricerca. Tu scrivi meccanico, il sito ti dà l'elenco dei meccanici che aderiscono e tu, per prossimità geografica, per conoscenza diretta, insomma, per quello che ti serve di più, perché ci sono le varie competenze, tieni conto che il primo zoccolo duro che è nato con l'inizio del progetto lì su Gioiosa e i comuni limitrofi, a questo momento siamo già oltre i 400 aderenti. Fantastico. E parliamo di un numero di popolazione anche relativamente basso. Certo. Chi ha conosciuto questo sistema fuori dalla Calabria attraverso il sito ci ha chiesto di poterlo replicare. Tant'è che io venerdì mattina parto, vado in Toscana a fare formazione per hai aprire capito. Un altro punto in Toscana. Hai capito? E io qua ce l'abbiamo niente prima. E io qua a fare la radio, lui se ne va in Toscana. ma vado in Toscana per tornare a fare formazione. Sì, sì, a fare cose. Formazione. Quindi a qualcuno. Ci sarà un'espansione. Non ci sono limiti territoriali a questa cosa. È tutto. Inizialmente sì, adesso non più. Perché tutto converge bene o male sul sito e sulle sì, assolutamente. Infatti, poi se vi va di fare da sponda, perché comunque non nulla toglie che ci stiamo allargando anche qui su Reggio, ci sono ancora pochi perché ci siamo venuti ancora poche volte, ci sono già degli aderenti su Reggio, però pensate che ci sono quasi 200.000 abitanti, anche se ne iscrivessero 1.000 o 2.000 sarebbe un mercato, cioè ci troveresti di tutto. Se io mi iscrivo e do una mia competenza generica, sì, e cerco appunto un meccanico per aggiustare la macchina, sì, la macchina ha bisogno di una manodopera per 200 euro, sì, lui meccanico raggiunge 200 euro di credito all'interno del gruppo. Esatto, aiutante. Esatto. Io perdo 200 euro dal gruppo aiutante. Non le perdi, diventano debitore. Esatto. Cioè sì, diciamo, io c'ho il mio, dovrei ridare, diciamo, questo valore. Perfetto. Non per forza, cioè puoi anche darne 300 e andare in 100, sì, in positivo, sì, perché non c'è un limite. Perfetto. Come dire, cioè se tu vuoi ridare 300, ben venga per te, voglio dire, no? Ma io li devo dare, diciamo, al gruppo, al aderenti, sistema, al sistema aiutiamo. Anche perché di contro le persone che si rivolgeranno a te, a loro volta potranno frazionare, come anche tu, potrete frazionare questo credito come si vuole, ovunque ti serve, perché se tu hai 500 e il meccanico te ne chiede 200, non è che gliene devi dare 500, gli dai le 200 e le altre le frazioni. Quindi è come avere i soldi in tasca. La cosa particolare che di cui mi sono reso conto sul campo, parlando anche con le persone, è che c'è una dipendenza psicologica dalla banconota. Chiaro. Dato che c'è la dipendenza psicologica dalla banconota, è difficile, cioè più che altro non è immediato percepire che se non passa questa moneta, se non passa la banconota, tu comunque l'acquisto lo stai facendo. perché ti impegni comunque a ridarli. Quindi questo cosa vuol dire? Che il tuo potere d'acquisto, se tu in un mese guadagni 1000 di stipendio, di lavoro, di quello che sia, attraverso Aiutamondi hai le tue 1000 più potenzialmente i tuoi 1000, 3000, altri in più. Tutto quello che io posso ridare. Esatto, esatto. Abbiamo parlato anche del territorio nel quale è nato questa idea, che parlando di Gioiosa, no? Gioiosa, Gioiosa Ionica è stato il primo nucleo. E comunque ha risposto, diciamo. Sì, sì, sì, sì. Ti dico, i 4-5 comuni limitrofi hanno prodotto già 400 iscritti su una popolazione di un 20.000 abitanti, grosso modo. Quindi è abbastanza. Questo vuol importante. Dire, pensa. 10 volte tanto Reggio, per esempio, sì. 200.000 vorrebbe dire 4.000 iscritti. Quindi, parlando invece di una difficoltà che avete trovato nel proporre il progetto, c'è stata qualche particolare? Proprio quello che stavo dicendo, la dipendenza psicologica dal passaggio solo cartaceo. Questo, solo questo. Cioè, perché c'è di... cioè, se io entro in un esercizio commerciale e dico... so che tu fai parte di Aiutamondi, io faccio parte di Aiutamondi, compro da te la cosa che mi serve, non ti do la banconota. Allora io che compro, dico, caspita, non lo sto pagando, non gli sto dando i soldi. Sì, sì, sì, sì. E dall'altro lato la persona che vende dice, caspita, io non sto incassando. Mm-hmm. E quindi c'è questa, come dire... questa diffidenza. Chiamiamola diffidenza, ma sul fatto che non c'è questo, non tra le persone in sé, no, quanto su questa mancanza di passaggio fisico della moneta. Mm-hmm. Anche se in realtà il passaggio avviene anche perché comunque anche se io non ti sto dando il contante, tu è come se già li avessi riscossi, perché puoi già andare a spenderli da altre parti. Cioè, hai già incassato. È una cosa virtuale, come succede per esempio per un bonifico. Cioè io posso pensare, sì, ok, ho fatto il bonifico, quindi quella merce la sto acquistando, quel servizio, esatto, lo sto acquistando. Esatto. In realtà esatto, sul sito, esatto, perché il meccanico di prima si è ritrovato le 200 esatto, euro e io ho l'addebito di 200 euro. La cosa fisica perché avvenga tutto questo è la piattaforma. C'è un sito proprio, questo www.aiutamondi.com, è il sito attraverso cui quando io vengo a comprare da te, tu che sei il creditore, vai con la tua password sul tuo profilo, entri e dice Ilario è venuto da me e ha fatto questo acquisto per questo importo. Sia a me, che sono il debitore, arriva il messaggio, cioè a parte che lo so, arriva a me il messaggio di posta e io entro a mia volta e confermo, sì è vero, ho fatto questo acquisto per questo importo. A noi amministratori del sistema non resta che dire ok, e così due, chiamiamoli conti corrente, virtuali, salgono e scendono senza lo scambio di... Ovviamente quando vengo a fare l'acquisto, come forma di garanzia ci sono dei tagliandini di delle ricevute, ecco, delle ricevute cartacee che vanno compilate con i miei dati e i tuoi, te lo firmo io che compro e ti resta come garanzia scritta. Quindi non c'è solo il discorso virtuale, ma c'è anche la possibilità di avere un riscontro fisico. Assolutamente, diciamo, assolutamente. Sì, sì, sì. Questo era aiutamondi.com, dove si possono trovare tutte le informazioni. Aiutamondi.com. Adesso ci sono i recapiti telefonici, insomma, poi aggiungeremo. Ma noi siamo degli giovani, altri punti. Siamo giovani, sì, sì, siamo sì, del punto zero. Dai, www.aiutamondi.com, la gente va là, informazioni, ma invece c'è un altro personaggio a cui dobbiamo rivolgerci adesso, che è il tizio che è alla radio e si è totalmente disinteressato di quello che hai detto, perché c'è. E allora tu hai un mantra motivazionale per dire a lui, iscriviti, impegnati, no, al di là di iscriviti, informati, incuriosisci, cioè a Reggitano 1.0, cosa si potrebbe dire per coinvolgerlo in questa cosa? Che finora tutte le domande, tutte le opposizioni che sono state fatte hanno sempre avuto risposta e non c'è stata nessuna domanda negativa o qualunque dubbio, che sia di carattere pratico, che sia di carattere fiscale, che sia di carattere cioè, di qualunque natura, ecco, mm-hmm, per sintetizzare, di qualunque natura qualcuno sempre possa fare una domanda, dice ma non mi convince perché, viene smontata, perché finora nessuno è stato capace, dei 400 nessuno è stato capace di dire non può funzionare, perché funziona comunque. Cioè, quindi, pensa che pubblicità gratuita, okay, aderisci gratuitamente, trovi quello che vuoi gratuito, attenzione, gratuito e fuorviante. Cioè, non devi pagare con i soldi, ma sempre tramite un meccanismo che ti permette di risparmiare. Cioè, yes, i tuoi soldi ci puoi fare anche la vacanza, mentre comunque quotidianamente puoi utilizzare il sistema. Quindi posso dire il mio mantra, posso dire cosa avrei detto, magari c'è gratis su aiutamondi.com, presto panino col satizio, amico mio. Ma no. Volevo dire io. Se gli dici panino col satizio si scrive mezza Reggio. Vai. L'altra mezza si scrive dicendo panino con le frittole. Ma questi item mentali. Più che volentieri, sai che facciamo? Vi passo, diciamo così, la palla, e nel momento in cui io non sono presente, uso te come riferimento. Quindi certo, tutti questi panini li distribuisci tu, in pratica. Basta trovare un macellaio. Guarda, in Aiutamondi, se tu vai e usi il motore di ricerca, mi pare che già 5 o 6 ci sono. Quindi macelleria. Sì, assolutamente. La bollitrice per frittole. Mi stai incuriosendo assai, domani vado. Abbiamo trovato un altro, dai. No, ma a parte gli scherzi, io faccio il mangiatore. Ho chiesto a Roberto se già mi dà una mano, ci dà una mano. Aiutamondi, ecco. Aiutamondi, sono molto interessato. Perché comunque in più si è e meglio funziona. Certo. Tra l'altro funziona moltissimo col passaparola. Se tu hai, mi voglio iscrivere in palestra, ma la palestra non ne fa parte, io spiego il sistema al titolare della palestra, gli dico aderisci, e tu ne trai vantaggio, tu, e ne trai vantaggio lui, perché gli porta altri clienti e gli diventa pubblicità. Sì. Tra l'altro alcuni commercianti dicono, ma se vengono 1000 persone da me io sono rovinato. Ma non è così. Perché comunque dall'interno del sistema, degli aderenti al sistema, quante persone possono venire? 50, diciamo. Tutti gli altri clienti, gli altri iscritti, le altre persone che vengono comunque normalmente da te, resteranno comunque quelle. Quindi tu non perderai mai né clientela né liquidità. Per quante persone possono arrivare, c'è sempre... ci saranno sempre con l'esterno del sistema, sono sempre dei crediti che tu prendi, acquisisci, esatto. E per, come abbiamo detto prima, per le aziende, vi dicendo, è anche una piccola vetrina per tutti, perché se tu che non hai un'azienda ti rendi conto di avere comunque con la tua competenza un mercato tale che ti permetterebbe di aprire un'attività, esatto, quello ti funziona anche come specchio, come cartina al tornasole di quella che è la tua potenzialità, per vedere se magari, perché non mi attivo e avvio un'attività per fare in questa cosa, reclutare possibili clienti, esatto, sì. Fantastico, ragazzi, sì. Adesso se mi trovate, se fate qualche domanda, che per vedere davvero se ci sono domande a cui non è possibile rispondere con questa cosa, mettiamolo come test per la prossima, per gli amici a casa. No, mandate un'email, mandate delle domande, sì, mandate delle domande e risponderemo, o risponde Ilario, sì. O rispondo io scrivendo 42, che no. È risposta universale, è la 42, questo è bellissimo. Ragazzi, adesso salutiamo Ilario di questo spazio che ci è venuto a trovare. Grazie. Ora facciamo finta che se ne andrà, ma in verità resta qua a chiacchierare con noi. Sì, no, ma più che volentieri resto ad ascoltare anche gli altri e mi auguro di tornare. Perché? Perché mi è piaciuta la pizza. Perché mi è piaciuta la compagnia. Vedi che non lo freghi mai. No, ma aiutiamo di che mi allena, capisci? Ragazzi, adesso è ferrato a tutti. Uno spazio musicale, The Windsurfer. Grazie. Con The Ain't Good News. My baby is coming home tomorrow, and that good news is La cena dei regini, ragazzi, avete visitato www.ibac.it, fatelo adesso, cliccate la cena dei regini. Quanti ospiti questa sera, Nino? Quante storie che si sono, che abbiamo ascoltato, quante storie interessanti. E tra queste passiamo all'angolo un po' delle invenzioni, della scienza questa settimana, con questo intervento che ha tenuto il professore Rifkin, venuto in visita tra l'altro in Italia, Jeremy Rifkin, e ha parlato insomma della possibilità di sfruttare le energie ecosostenibili, le energie rinnovabili. Devo dire che queste scene qui al VAC diventano sempre più interessanti, io sono sempre più entusiasta e infatti comincio a essere sempre presente. E anche devo dire che poi, anche se in maniera molto scanzonata, molto simpatica, e anche perché comunque si conoscono sempre nuovi amici, certo, questa sera. No, anche perché spieghiamolo, cioè la trasmissione ha degli obblighi radiofonici, quindi però tra un blocco e l'altro, oltre a mangiare, che non è neanche male, c'è una bella discussione, sì, un bel confronto, quindi comunque. Tu, Roberto, mi concederai qualche licenza poetica, no? Perché chiaramente io, essendo fondamentalmente un artista, quindi diciamo vivo così una dimensione anche un po' particolare. No, è bello, intanto è bello ritrovarsi per condividere queste poche cose che portiamo, che poi non sono poche, perché comunque rimangono, Chiaro. Qualcosina rimane sempre, poi la destiniamo in beneficenza, quindi anche questa è una bella cosa. E però è anche bello, insomma, il fatto che è un'occasione per vivere momenti di modernità, di contemporaneità, no? Di scoprire delle cose, magari ognuno porta una novità, così fare tante cose, insomma, cerchiamo di capire anche, insomma, il mondo in cui stiamo vivendo. Mi sembrava interessante questa notizia, appunto, questa affermazione di Jeremy Rifkin, questo grande economista americano, anche consulente peraltro della Commissione Europea, quindi insomma, una persona assolutamente da tenere in considerazione, assolutamente. Chiaramente poi basta ricordare i libri che ha scritto, che sono stati anche un po', hanno prefigurato il futuro, insomma, come La fine del lavoro oppure L'era dell'accesso, sono libri che hanno prefigurato la società contemporanea. E fra le tante cose, appunto, mi ha colpito molto questa sua puntualizzazione, questa idea della terza rivoluzione industriale, no? Intanto partendo da un'analisi molto, secondo me, molto precisa, il fatto che appunto i disastri ambientali, insomma, gli sconvolgimenti climatici siano, come lui afferma, come Rifkin afferma, siano dovuti principalmente al fatto che negli ultimi 200 anni, appunto dalla seconda rivoluzione industriale in poi, l'uomo proprio ha ceduto completamente nel consumo, nella produzione di energia attraverso i combustibili fossili, quindi liberando una grande quantità di carbonio, di CO2 nell'atmosfera. E quindi questi cambiamenti climatici che hanno portato anche a una crisi delle risorse, una crisi per cui anche, addirittura si parla di essere alle soglie della terza guerra mondiale, ma sostanzialmente come sta avvenendo in Siria, eccetera, ma sappiamo benissimo con chiarezza che tutto è finalizzato all'appropriarsi delle risorse energetiche. Quindi c'è anche questa cosa. E lui effettivamente, Rifkin suggerisce un modello che tra l'altro è molto legato anche al web, per certi versi, così parafrasando, ma è legato alla produzione di energia, quindi il discorso di produrre energie alternative, rinnovabili, e anche di accumulare l'energia, perché ci sono dei sistemi che noi possiamo accumulare l'energia e trasformare l'energia in eccesso addirittura di idrogeno. Quindi ci sono degli accumulatori per cui tu diciamo, questo idrogeno lo puoi accumulare andando a incidere poi abbassando il livello di tossicità dell'atmosfera, eccetera. E non solo, quindi l'energia ce la possiamo produrre attraverso gli accumulatori, i pannelli solari, l'energia solare, l'energia eolica, dove ci sono degli esempi, ormai in America sono abbastanza avanzati anche su questo fronte. E noi l'energia la possiamo non solo quindi abbattere i costi radicalmente dell'energia e utilizzarla nelle abitazioni, per cui in Europa, per esempio, tanto per citare un numero, ci sono 191 milioni di costruzioni di abitazioni, 191 milioni, abbattere i consumi di energia significherebbe veramente risollevare radicalmente l'economia. E non solo, ma in questa energia in più, questo surplus, c'è la possibilità di metterla in rete e quindi rivendere questa energia. Poi il punto della ragione. Produce uno sconvolgimento nel sistema economico, perché così insomma si possono creare tante micro imprese, tanto si può creare lavoro. Su un meccanismo che qui adesso sarebbe troppo lungo stare quindi a spiegare. Creare da fonti rinnovabili energia, condividerla in una rete che sia anche diciamo un centro di stoccaggio tra virgolette dell'energia e quindi la mantenga, e utilizzare e commercializzarla, cioè tu praticamente questa avrai la possibilità di vendere l'energia in più che produci, quindi chiaramente in tutto questo ci rimetterebbero le grosse aziende che producono i grossi monopoli relativi all'energia. Che sono penso l'unico freno a questa cosa, perché già adesso credo che una casa possa produrre teoricamente anche mantenere energia, riuscire a, però non è possibile da un punto di vista legale, forse. No, si può anche da un punto di vista legale, perché qui in Italia proprio qualche giorno fa il TG1 ha parlato di questo primo modello di casa completamente autonoma e slegata da tutti i sistemi a rete, proprio pochi giorni fa, l'altra settimana il TG1, mi pare il TG2, hanno fatto vedere l'inaugurazione di questa prima casa completamente slegata dai sistemi a rete. Quindi già completamente autosufficiente. Sì, e un'altra cosa, se volevo aggiungere, poi lascio subito la parola. Volevo aggiungere questo, per cui Riff cita anche la possibilità appunto dell'impiego totale per quanto riguarda la mobilità, cioè la sostituzione delle attuali automobili con automobili totalmente elettriche, quindi totalmente non inquinanti, che potrebbero rifornirsi appunto proprio direttamente negli edifici, dove ci possono essere dei punti appunto, questa energia accumulata ti collega all'edificio, per cui praticamente abbatteremo anche i costi del petrolio, i costi dei carburanti, quindi questa è una vera e propria terza rivoluzione industriale, sarebbe basata sull'economia e sulla rigenerazione praticamente dell'ambiente. Perché ognuno diventerebbe produttore della propria energia, quindi comunque si andrebbe ad ammortizzare automaticamente il problema. E poi in più il discorso della rete permetterebbe anche strutture pubbliche, diciamo, accessibili a tutti, di servizi dove attingere scorso anno durante il viaggio di nozze, tanto per essere chiari, a Parigi ho visto dei punti in cui c'erano una serie di smart, tutte parcheggiate una di fianco all'altra, tutte uguali, con le colonnine dietro, erano tutte macchine elettriche tipo car sharing, però tutte elettriche, erano numerate, erano lì in fila, tu prendevi la macchina, cioè ovviamente mettendoci la quota, prendi la macchina e tu sai che hai la macchina ad energia pulita, ad impatto zero, in vari punti della città. Come a Bologna e Reggio Emilia ci sono le biciclette, lì ci hanno messo le macchine. Però adesso, per esempio, i contratti per i pannelli solari a casa, chi ti fa il contratto, chi ti fa l'impianto, non ti dà comunque la possibilità di avere uno stoccaggio dell'energia. Cioè la tua energia va comunque messa tutta in rete e ti dà un credito. C'è lo scambio sul posto. Quindi tu comunque non riesci a essere totalmente autosufficiente, perché di notte o comunque nelle giornate di scarsa irradiazione, perfetto, tu comunque non riesci a sostentarti in tutto e per tutto. Quei momenti dove comunque il sole non ti aiuta. Se tu pensi soltanto al solare, perché poi c'è anche l'eolico domestico, perché l'eolico domestico non è legato al sole, e adesso ci sono delle, chiamiamole ventole da tetto di casa, che con una spesa diciamo intorno alle 2000 euro, grosso modo, poi 100 più 100 meno, ti produce anche oltre 3 kW, una ventola, le puoi mettere o in serie, perché ci sono dai 400 watt a quelle più grosse, ne ho viste alcune proprio, ce ne sono alcune vicino a casa mia via Gioiosa, hanno messo 3 ventole che ruotano, perché poi sono a, per ridurre al minimo l'attrito, sono a magneti e quindi riducono al minimo indispensabile l'attrito, cioè già con mezzo metro al secondo di vento girano. È una cosa eccezionale. E alcuni studenti universitari hanno fatto dei modelli che sono delle enormi lattine, tipo enormi lattine di bibita, cave, come se fossero una doppia elica esterna, e poi sono cave. Anche quelle a basso, diciamo relativamente, a basso costo, cioè hanno costi più bassi e un rendimento più alto dei batteri. Sì. Comunque si sfrutta un altro tema molto importante, molto molto oggetto di discussione, ma troverebbe largo impiego, è quello dell'energia termica, no? Sì. Quella che prendi dal sottosuolo, sì, sì. La geotermica sì, è una delle energie più grandebro più sfruttate. Sì, sì. Purtroppo come da noi, anche se la Calabria comunque bisogna dire che c'è un surplus di energia, sempre così si dice che abbia un surplus, perché poi si esporti già energia, quindi non vedremmo un articolo l'altro giorno su internet, sul web, non vedremmo la necessità di questa centrale a carbone, 600% di fabbisogno provinciale, quindi non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di quello che ci serve, ma quello non è il nostro bisogno, avrebbe bisogno di un altro che aveva bisogno di soldi e quindi voleva questa centrale qua, non è un bisogno nostro, è il nostro bisogno. Quindi anche su questo insomma dobbiamo un attimino riflettere, ci sono gli strumenti, ecco, e la sintesi estrema della nostra scena, da bellissime insomma indicazioni che ci ha dato il nostro amico qui presente, con l'esperienza di Aiutamundi, il consorzio Goel, sono tutte esperienze preziosissime che dovremmo importare, ecco, perché è significativo che queste esperienze nascano più dove c'è forse meno risorse dal punto di vista umano, forse meno aggregazione umana nella nostra provincia, ci sono meno abitanti di quelli che ci sono nella nostra città, però vediamo tanta creatività. Certo, ma anche perché forse è anche la necessità, diciamo, a fare l'uomo più curioso e più astuto, nel senso che forse una società come siamo abituati a conoscerla noi quando eravamo ragazzini, tipo anni 80, anni 70, più diciamo tranquilla da un punto di vista sociale, economico e via dicendo, tante cose forse le abbiamo lasciate un po' andare, invece adesso che siamo, diciamo, più con l'acqua alla gola in generale, ci sono altre situazioni, forse la capacità di essere più astuti, anche più fare meglio rete, diventa anche una necessità, certo. Oltre che una cosa ovviamente bellissima. Si parla poco di questo, si parla pochissimo. Per esempio, voglio concludere questo discorso portando un esempio, no? Forse molti non sanno che una delle industrie, la seconda industria al mondo, diciamo, dal punto di vista del successo economico, dell'assenza di crisi totale, è l'industria per esempio dell'Algida, i gelati Algida, che peraltro la fabbrica è nel napoletano, quindi certo. È una fabbrica del sud, che non conosce crisi, esporta, cioè, è presente in tutto il mondo l'Algida, no? I frigoriferi, i cornetti Algida, sono in tutto il mondo. E allora, se vai a vedere la fabbrica come è strutturata, dal punto di vista energetico è totalmente autosufficiente. Cioè loro hanno il problema, non è solo la produzione del gelato, che peraltro se dal punto di vista diciamo qualitativo, dal punto di vista organolettico alimentare, non è che sia il massimo insomma della genuinità, perché insomma alla fine latte in polvere mischiato con l'acqua, questo è un prodotto industriale. Prodotto industriale, diciamo, ma... che noi siamo anche un po' viziati alla nostra scuola regina del gelato, Cesare è sempre Cesare, la crema regina sempre. Però voglio dire, è significativo insomma che oggi le industrie, quelle che hanno più successo, sono quelle che dal punto di vista energetico hanno un'autosufficienza, certo. Quindi questa è anche una cosa molto importante. Ragazzi, sono temi sempre interessanti, sempre d'attualità, li riprenderemo sicuramente nelle prossime puntate, come avevamo anticipato. Adesso possiamo un attimo, tra virgolette, rilassarci con una nota più allegra, più tranquilla, che è la nostra classifica, ragazzi. La classifica questa settimana molto molto particolare, perché riguarda tutti, ma soprattutto i più giovani, e sono le 13, i 13 argomenti scientifici che sono falsi ma a cui tutti continuano a credere, o comunque i miti, diciamo, della scienza moderna. Tredicesimo posto, questo qua sinceramente l'ho trovato incredibile, però si pensa che durante l'estate la Terra sia più vicina al Sole. Cioè non è così, non è così, fa caldo per un discorso di inclinazione dell'asse terrestre, anzi è più vicina al Sole in gennaio. Chi quando sa qualcosa di apelio e perielio. Davvero quindi c'è pensa... chi crede che fa più sì. caldo okay. C'è chi crede che fa più caldo perché il Sole è più vicino alla Terra, e quindi yes. È una cosa incredibile, perché il Sole che si sposta assolutamente mentre perché... gira intorno alla Terra, il Sole si avvicina. Per me si ritorna al concetto geocentrico, che è il Sole che gira intorno alla Terra, non la Terra. Sì, ma la Terra è piatta, non può girare. Come gira? Come un 33 giri. Non può girare, però è su un altro. Ci mettiamo un sottoterra con qualche anche la musica. Ragazzi, numero 12 è... Si pensa che usiamo solo il 12% del nostro cervello. Questa è una cosa. Perché c'è una sommossa. No, perché tutti con Andrea? Perché io ho detto Andrea neanche quello. Ma guarda che cattiveri. E invece, nella giornata di 24 ore si usa una grande quantità di materia cerebrale, totalmente. Al di là il giorno dopo è consumata e quindi non la puoi usare più. L'energia rinnovabile? Ci devo pensare. oggi sono già al 2%. Se noi calcoliamo quante persone sono in questo momento ammassate, pronti a aspettare verti fuochi, non penso. Ma quella è la poesia, è la tradizione. Però guarda, le lucine colorate! Però sono tutti ammassati a vedere i fuochi, però i piromani tutto questo pubblico non ce l'hanno, non è che... sono altre attività, sono fuochi anche quelli. Vi faccio vedere io come attiro l'attenzione, dammi l'accendino. Altro mito della scienza: il 95% degli oceani è rimasto inesplorato. Se parliamo da un punto di vista di occhio umano, questa definizione è corretta, ma qui grazie alla tecnologia sappiamo abbastanza di quello che succede negli abissi marini. Ovvero noi pensiamo al mare come questo universo assolutamente sconosciuto, e invece ragazzi ormai ci resta ben poco. Ma poi dico, con tutti i documentari che fanno, cioè penso che l'hanno esplorato praticamente tutti. I documentari, un fondale scenico del stesso. I documentari per risparmiare lo fanno tutti nello stesso fondale scenico. Ma quello che ci ha svoltato dal punto di vista umano è Google Earth, ovviamente. Perché là tu lo guardi tutto. Cioè il fondale non lo guardi, però sopra puoi guardare da qualsiasi punto della Terra. Ma addirittura dopo che è uscito l'aggiornamento, forse non so se ve lo ricordate. Se ve lo ricordate, quando è uscito l'aggiornamento di Google Earth, c'era un tizio che andando a sfogliare la cartina aveva trovato dei punti strani ed era convinto di aver trovato Atlantide tramite il Google Earth. L'hai letto tu? C'è stato sto tizio che era convinto di aver trovato Atlantide. Poi è andato a trovare, a vedere se c'era. Hanno visto che non c'era niente. Era un glitch forse della. Saltare la colazione vi fa perdere peso, anche questo è un mito scientifico. Invece è il contrario, perché meno pasti fai, più rallenti il metabolismo e più grasso. Dovresti fare 5 pasti al giorno, piccoli pasti, ecco, non 5 pranzi da matrimonio. Esatto. E dipende, merende calabretti oppure no? No, ecco. Nella maggior parte dei casi gli studi sono arrivati alla conclusione che saltare la colazione non ha poi effettivamente questi effetti sul peso, cioè non è una grande discriminazione. Ma quale bisogna saltare? La prima, la seconda o la terza? La terza cosa. L'importante è la qualità, anche la qualità. No, comunque la colazione serve davvero, perché se non la fai non ti attiva il metabolismo, rimane fresco. Fantastico. Questo io. C'è un altro mito che gli uomini senza tute spaziali, gli astronauti, esploderebbero. Questo qua non mi risulta nuovo. C'era questo mito che gli uomini un uomo nello spazio senza una tuta esplode. Non si sopravvive a lungo comunque, però non resta una tuta. E quale fenomeno? La pressione sanguigna dall'interno che non ha la forza di gravità che lo trattiene. Cioè il tuo corpo non è trattenuto dalla pressione, perché non so quanti cioè tu pensi a un'atmosfera per centimetro quadrato di pelle, nello spazio non ce l'hai la pressione sanguigna interna che dovrebbe teoricamente dice esplodereste, invece no, non invece esplodi, no, non esplode, il vuoto vi farebbe ribollire il sangue e perdereste così tanto calore da congelare in pochi istanti. Anche perché se non sbaglio siamo a meno 200 gradi nell'atmosfera. Guarda, fuori l'atmosfera, ma non lo so, perché comunque il raggiamento solare arriva, certo fa molto più freddo perché non c'è, diciamo, non c'è l'atmosfera, la cappa che trattiene fa... il calore, quello sì. Esatto. Però... E poi perché lo chiede a te? Solo meno 214 e qualcosa. E poi perché lo chiede a te così? Perché ormai no, ne è presa no, questa. C'era lui, non è lui, posso avvalermi della facoltà di non rispondere, ovviamente. E allora, un'altra domanda. Da cosa deriva la capacità di arrotolare la lingua? Un enzima. No, sbagliato. È una questione di genetica. Quando si pensa così. Alcuni bambini nel 1940 riuscirono a sviluppare questa capacità e poi 11 anni dopo hanno dimostrato che il numero di bambini in grado di arrotolare la lingua aumentava del 20% tra i 6 e i 12 anni. Quindi arrotolare la lingua è una specie di evoluzione naturale dell'essere umano. E se rotolarla? E quello ci deve arrivare alla generazione successiva. Un'altra fase evolutiva, insomma. Si pensa che i delfini sono molto più intelligenti degli altri animali. C'è questo mito, invece non è proprio così. Potrebbero non essere così intelligenti, anche se gli scienziati hanno speso molto tempo alla ricerca, ma non c'è effettivamente una prova scientifica della nota intelligenza dei delfini. Anche perché altrimenti gli americani non li avrebbero potuti usare come kamikaze con le bombe attaccate dietro per far saltare le navi nemiche. Sì, e poi il mitico Douglas Adams invece nel suo libro scrisse addirittura che erano proprio degli alieni che sì, venivano a scroccare. Avrà visto Guida Galattica per autostoppisti quando... grazie. Vedo che tutti lo conoscono. Anche il film. Teoricamente un insetto che vola è contro le leggi della fisica, perché solitamente si paragona agli aerei e quindi si pensa che sia un fenomeno di carattere scientifico. Invece questo è vero perché quando sbattono le ali creano dei mini vortici che li aiutano a rimanere in aria. Anche perché mettici pure che non sono andati a scuola, quindi non conoscendo la fisica se ne fregano. Si devono arrabattare. Questo è un colpo di scena. Il mito che l'acqua conduce elettricità non è vero. L'acqua sono in sé, i minerali disciolti nell'acqua. Non sono le impurità contenute in essa che la rendono conduttrice. Anche perché se l'acqua conducesse l'elettricità, il tram andrebbe l'acqua. Sarebbe molto più facile. Mito da sfatare: i fulmini non cadono mai nello stesso posto. È falso. I fulmini possono cadere nello stesso posto. Non vedo il motivo per cui dovrebbe succedere il contrario. Però c'era questo mito, invece è stato dimostrato addirittura con un video su YouTube che è possibile che un fulmine colpisce per 3 volte l'Empire State Building di fila. E quindi anche questo è da sfatare. Gli esseri umani hanno smesso di evolversi delle prove tecniche. Però se ci sono 9 fulmini tutti nello stesso posto, allora lo vorremmo. Sì, può essere tutto qui. Gli esseri umani hanno smesso di evolversi per selezione naturale. Noi siamo una rappresentanza che già. Io non mi sento evoluto. tu già richiami fuori dall'evoluzione naturale. Vabbè, più o meno penso che ci stiamo evolvendo, almeno nella durata della vita, nelle caratteristiche fisiche, comunque magari lo vediamo più lentamente perché, anche perché vivendo nel momento abbiamo fatto, non lo vedo. Possiamo arrotolare la lingua adesso anche quello. Esatto, e infatti è questo che hanno praticamente distinto gli scienziati. Abbiamo smesso di evolverci per selezione naturale, in quanto comunque chiaramente non abbiamo più strettamente bisogno. In realtà l'evoluzione dell'uomo avrebbe addirittura accelerato negli ultimi 1000 anni, quindi c'è stata comunque un'evoluzione, però comunque... Sì, diciamo, perché comunque la statura media e l'età media hanno continuato ad aumentare, le prospettive di vita sono aumentate, è cresciuta la statura media, anche se comunque hanno fatto il rapporto che anche se si allunga la vita media, aumenta il periodo di malattia, cioè l'ultima fase della vita in cui ci sono gli acciacchi improponibili, una volta durava un paio d'anni, adesso è vero che si allunga la vita, ma si allunga anche il periodo in cui proporzionalmente si allunga la vecchiaia, esatto. Non è che tu arrivi a 70 anni che sei più giovane di quanto delle fosse, persone del medioevo, ma sei sempre comunque anziano di 70 anni per dire, e cominci la tua vecchiaia. Sì. È fantastico, si allunga la vita, però si allunga quella parte di vita che è quella più noiosa, praticamente. Non è passi male, passi male. Purtroppo ci sono anche cose che non noioso ancora sarebbe accettabile, ma proprio che passi male. Si potrebbe, io faccio la proposta che si possono aumentare tra i 30 e i 40 anni. E che penso una volta che gli anziani non avevano neanche i pannoloni. Penso che più... Ancora se si allungava la vita nel medioevo, ma non avevano i pannoloni. Era durissimo. Però purtroppo c'erano cose che non si evolutano. Il pensiero delle persone. Se voi considerate, ad esempio, che durante le crociate c'era combattete per Dio, distruggete gli erci. Ora invece sono io kamikaze che. Però là! Uccide i computer. Loro lo fanno per le 47. Non detto 72 sono le motivazioni. 72 non ha detto che siamo tutti informati. Sei informato? Sono tutti due vergini, tipo, vedi, tanti nerd grassoni che giocano a LOL. No, ci rimangono un po' male, ragazzi. Se questo lo sente qualcuno, lo sai che ti trovano. Vabbè. Colpa del Buck. Va bene, andiamo avanti. Il mito che sulla stazione spaziale internazionale non c'è gravità. Non c'è gravità. E invece no. Dicono che se lo USS la gravità è solo. No, ISS. Quella è la USS. La gravità è solo poco più debole di quella che c'è sulla Terra. E come la ricreano? Grazie alla volevo vedere quanto era, certo. E poi ragazzi, numero uno, l'ultimo è sconvolgente, una cosa che veramente non l'avrei mai pensato. I gatti cadono sempre in piedi. No, quello è vero. Però è sconvolgente che ci metti un anche l'acqua dello sciacquone gira in senso antiorario nell'emisfero settentrionale e in senso orario in quello meridionale. Però la forza di Coriolis fa sì che i cicloni nei due emisferi girino in sensi opposti, ma ciò non accade in un lavandino in un bate. E quindi? Gira sempre nello stesso verso. Sicuramente no, uno stronzo viene seppellito allo stesso modo. La direzione. Ma quindi la puntata dei Simpson dove Bart chiamava in Australia sta sfatata. Anche un numero di Martin Mystery. No. Su un numero di Martin Mystery io scoprì questa cosa nella mia adolescenza. Me lo immagino, Martin Mystery preme l'acqua. Andiamo un attimo in Australia che voglio vedere come gira. Era un lavandino, era un lavandino. Era un lavandino. Vai, allora, queste le abbiamo sfiatate. Una constatazione però è stata comunque conclamata, il fatto che vi siete fatti una cultura su cartoni animati e fumetti. Fumetti, quello sicuramente. E adesso continuiamo con uno spazio musicale. Non c'è la PlayStation nella nostra infanzia. Quello ancora. Jude Andrew con Entertainment. cena dei regini anche questa settimana è andata così. Abbiamo mangiato, abbiamo chiacchierato, amici ci sono venuti a trovare ed è stato molto molto bello. Speriamo che anche a voi abbia ispirato, vi sia divertito. Ricordate di venire su www.tibac.it, cliccare la cena dei regini e comunicare con la trasmissione, anche volendovi proporre come ospiti per partecipare, cosa volete raccontare, quale esperienza volete portare alla cena. Ospite anche di questa settimana il vincitore del concorso della settimana scorsa, che ha indovinato il suono che era un bicchiere stretto tra le mani, tra l'altro di Andrea. E adesso anche per questa settimana il nostro gioco: bisogna indovinare un suono particolare prodotto qui e il risultato può essere proposto tramite i contatti che ci sono sul sito o sulla pagina Facebook della cena dei regini. Ragazzi, concentratevi e on the trot, va col suono. Cos'era questo? Cosa hanno sentito le vostre orecchie? Scrivetelo adesso, www.tibac.it. Mandate un'email, mandate ai contatti la soluzione e verrete ospiti con noi qui ad una delle prossime cene. Ragazzi, io adesso devo rimandare indietro il podcast per riascoltarlo anch'io, perché non ho capito, devo tornare indietro. E per questa settimana è tutto. Facciamo un applauso al vincitore della settimana scorsa. Bravo! E un saluto a tutti, ciao!